Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, giornata dedicata soprattutto oggi all'Italia, alle prospettive economiche dell'Italia, come già i nostri GR vi hanno ricordato. Infatti oggi il Centro Studi di Confindustria nella sua relazione autunnale certifica, diciamo, che la recessione italiana è finita nel terzo trimestre. L'economia italiana, si legge nel rapporto, è arrivata al punto di svolta, anche se la ripresa sarà lenta. Allora diciamo subito che un conto è dire che è finita la recessione, altra cosa è dire che siamo usciti dalla crisi. Non è un gioco di parole, ma sostanzialmente significa che hai smesso di cadere e di avere il segno meno, e c'è un leggero recupero, però per usare anche le parole del presidente Confindustria Squinzi, di oggi, quando hai perso 8 punti, quasi 9 punti percentuali di PIL da quando è scoppiata questa crisi, cioè il PIL italiano adesso è di un meno 9% quasi rispetto al 2007, crescere dello 0,5, dello 0,7 come dovremmo secondo Confindustria l'anno prossimo, è chiaro che non ti basta, nel senso che se anche crescessi dell'1% ci metteresti 8 anni a ritornare ai livelli del 2007, il che vuol dire tranquillamente nel 2021 tornare ai livelli del 2007. Non so se il paese possa attendere, per usare un eufemismo, tutto questo tempo. È chiaro che servono interventi che solo la politica può avallare, se non fare, per irrobustire questa ripresa, questo aggancio della ripresa internazionale. Però insomma, almeno possiamo dire che la recessione si è finita. E tra l'altro, nelle stime del Centro Studi di Confindustria, anche il calo quest'anno viene rivisto in miglioramento, cioè invece che fare meno 1,9 faremo meno 1,6%. Sono, alcuni possono dire, magre consolazioni. Sì, insomma, meglio una magra consolazione che nessuna consolazione. Di questo parleremo, anche perché resta sullo sfondo il tema di cui ci stiamo occupando da giorni, e cioè sostanzialmente i costi della pubblica amministrazione. A nostro avviso, anche le richieste che arrivano oggi da Confindustria, la riduzione del cuneo fiscale, a cui poco fa ha risposto il Presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha detto il taglio del costo del lavoro è il cuore della politica di crescita. Ebbene, questo taglio, servono risorse per levare la pressione fiscale, ridurre, anche levare la pressione fiscale in busta paga. Queste risorse le riesci a recuperare se spendi meno, oltre che spendere meglio, e quindi se riduci in parte questi 840 miliardi di spesa per la pubblica amministrazione, spesa anche e soprattutto degli enti locali, visto che è due giorni che battiamo sui costi delle regioni, e di questo poi parleremo anche brevemente. Sarà il filo conduttore comunque di tutta la puntata, perché questo scenario è chiaro che va a incastrarsi in quello che è intanto lo scenario politico. E da questo punto di vista l'invito che arriva dal ministro Saccomanni, dal premier Letta, dal presidente Confindustria è stabilità. Anche qui cerchiamo di capirci: la stabilità fine a se stessa non serve a nulla, significa immobilità, ma la stabilità intesa come condizione necessaria, anche se non sufficiente, per avere azioni di politica economica concrete che abbiano un consenso politico, che permettano di fare anche, prendere misure per alcuni definite impopolari, ma che servono a altre parti del paese. Ecco, quella stabilità è invece la condizione appunto necessaria per avere una politica che sappia, ripeto, agganciare questa ripresa. Parleremo anche di borsa. Oggi la borsa va bene, vanno bene soprattutto i titoli bancari, questo perché c'è stata un'asta dei bot italiani, scusatemi, l'asta del bot a un anno. Il Tesoro ha venduto tutti gli 8 miliardi e mezzo di titoli da collocare, il rendimento è all'1,34%, buona la domanda, non buonissima, 1,36 volte l'importo offerto, un po' in calo rispetto all'asta precedente, E lo spread italiano però resta 254 punti, resta simbolicamente sopra quello spagnolo che ha 249 punti. Dico simbolicamente perché qui l'effetto è più appunto simbolico che reale, non sono 5 punti di spread a fare la differenza sui rendimenti, ma attenzione, resta questo dato per cui la Spagna viene considerata seppur di poco più affidabile di noi in questo momento. E sempre il Premier Letta poco fa ha detto: attenzione con l'instabilità, torniamo in grandissima difficoltà. Ma dicevo della borsa, bene i titoli bancari con la Popolare di Milano che guadagna il 7% in questo momento, il Monte dei Paschi il 3,60, Unicredit pure, Banco Popolare più 3,20 e la Popolare Emilia Romagna più 3% come UbiBanca. Bene anche Mediaset oggi più 3,17%. E poi bene A2A più 2,80, Generali più 2,20, Mediobanca più 2,1, Enel Green Power più 2,1, Fondiaria più 2 come Enel e Autogrill, negativa ST Microelectronics meno 1,5, Pirelli meno 0,70 come Tenaris, mezzo punto lo perde Eni. La notizia, l'altra buona notizia di poco fa, e siamo a 2 con quel che passa il convento, dobbiamo accontentarci. Poco fa il presidente dell'Autorità per l'Energia Guido Bortoni, parlando in audizione, ha detto che sostanzialmente vi sarà dal 1 ottobre la terza riduzione del prezzo del gas, meno 2% anche dal 1 ottobre. Complessivamente in questo modo nel periodo aprile-dicembre vi sarà stata una diminuzione del 7% del prezzo del gas. Ci auguriamo, c'era un dovrebbe nelle dichiarazioni di Bortoni, speriamo che il condizionale si tramuti in un dato di fatto, perché anche quello, tutte sono piccole cose che poi pesano, fermo restando che noi paghiamo tariffe elettriche di un 20-30% più alte della media europea. E allora 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Allora, poche notizie oggi dal fronte internazionale. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, sono crollate ai minimi dal 2008 le richieste di mutui. Per quello che riguarda il mercato dell'energia invece, se il petrolio resta sotto i $110 al barile, a $107 al barile, oggi Eni ha annunciato che è partita la produzione nel giacimento, nel Super Giant, il mega giacimento di Kashagan in Kazakistan, dove Eni partecipa con il 16%, quasi 17%, attraverso Agip, che è il CEO ed è responsabile dello sviluppo e della messa in produzione del campo. Gli altri partner sono appunto Kazimunia Gas, ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhillips e Inpex. Kashagan è uno dei più grandi giacimenti petroliferi scoperti negli ultimi 40 anni a livello mondiale. Pensate che ha riserve stimate di quasi 35 miliardi di barili di petrolio e praticamente nella fase iniziale produrrà 180.000 barili al giorno, successivamente li aumenterà fino a raggiungere quota 370.000 barili di petrolio al giorno. Una notizia che arriva dall'America e dovrebbe far riflettere, perché noi stiamo commentando da settimane e da mesi un'America che è uscita ampiamente dalla recessione, ha ripreso a crescere e si sta riportando sui livelli pre-crisi, tant'è che si ragiona molto su quando, non quanto, non se e non quanto, ma quando la banca centrale americana, la Federal Reserve, inizierà a ridurre lo stampaggio di dollari e aumentare i tassi di interesse. Allora, da questo punto di vista però è interessante quanto ha scoperto l'Università Californiana di Berkeley. perché ha detto che si è accorta, studiando i dati nel periodo 2009-2012, che la ripresa economica americana è andata quasi tutta a vantaggio dei redditi più alti. Per l'1% dei redditi, quelli più elevati, infatti la crescita del potere d'acquisto del reddito è stata del 31% in questi tre anni, a fronte di un più 0,4% per tutti gli altri. Ora, siccome tra questi redditi più elevati c'è anche molta finanza, il sospetto che abbiamo avuto noi già anni, che poi Wall Street si fosse rimessa a fare le stesse cose con gli stessi bonus, non è un sospetto, basta guardare i bonus distribuiti alle grandi banche d'affari americane in questi anni, è quasi una certezza a questo punto. Più 31% il reddito dell'1% della popolazione, più 0,4% il reddito del 99% della popolazione, un po' come nella fattoria degli animali di Orwell, tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri e abbiamo capito dove piove. Veniamo all'Italia, un nuovo fascicolo su presunti rapporti tra gli ex vertici del Monte dei Paschi e la politica, attenzione, è stato aperto dalla procura di Siena, lo si è preso da fonti vicine all'inchiesta, non vi sarebbero al momento indagati, ma nel fascicolo vi sarebbero anche alcuni documenti acquisiti nell'ambito dell'inchiesta che portò, sull'operazione che portò il Monte dei Paschi ad acquisire la banca Antonveneta. Nel frattempo è iniziato a metà pomeriggio il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, nel corso del quale il presidente Alessandro Profumo e l'amministratore delegato Fabrizio Viola illustreranno le prime linee del nuovo piano di ristrutturazione, quello imposto da Bruxelles, che abbiamo commentato anche ieri, perché obiettivamente se l'Italia avesse scelto un'altra procedura non ci troveremmo nella situazione di avere Bruxelles che dà gli ordini direttamente al Monte dei Paschi. L'ha spiegato molto bene ieri Alessandro Praterotti, noi a suo tempo dicemmo non abbiamo bisogno di aiuti e quindi adesso, per non finire nella categoria degli aiuti di Stato, i 4 miliardi di Monti Bond al Monte dei Paschi vengono esaminati da Bruxelles, che ha detto bene, se il Monte dei Paschi vuole questi soldi deve aumentare il suo capitale di 2 miliardi e mezzo, che è esattamente la capitalizzazione attuale del Monte dei Paschi, cioè una cifra enorme. Se avessimo chiesto invece gli aiuti europei, a questo punto non dovremmo sottostare appunto a tutti i diktat di Bruxelles, perché avremmo già ottenuto un via libera iniziale, e da questo punto di vista a mio avviso è stato un grosso errore dell'allora governo Monti avere questa idea che tanto ce l'avremmo comunque fatta, che il sistema bancario italiano comunque avrebbe retto e non avrebbe mai avuto bisogno di aiuto. Guardate cosa ha fatto la Spagna invece con la vicenda Bankia. Oggi parleremo meno degli altri giorni di quello che riguarda i costi della pubblica amministrazione, ci torniamo, però faccio solo notare che poi quando dalle parole si passa ai fatti, ieri abbiamo spiegato tutti i meccanismi che non permettono alla spesa pubblica italiana di essere efficiente, 7 livelli in questo paese decidono sugli alberi, ma non solo, ci sono 30.000 enti appaltanti, quindi 30.000 soggetti che possono appaltare, lanciare una gara, un bando, oltre che essere tanti, non sono nemmeno in comunicazione tra di loro, non sono digitalizzati e quant'altro. Poi però passare dalle parole ai fatti è difficile. Guardate cosa sta capitando nel paese per via della soppressione di alcuni tribunali che dovrebbero, hanno un unico obiettivo, rendere meno costosa la macchina della giustizia e avere la possibilità di avere maggiore efficienza, no? Allora, stanno protestando gli avvocati di tutta Italia. Io capisco le esigenze dell'avvocato che dice più comodo avere il tribunale sotto casa che non farsi 20-30 km. Ma non è che allora a questo punto non si fa nulla in questo paese, perché c'è sempre qualcuno che si alza e dice a me non sta bene. Per la soppressione del tribunale di Sala Consilina a Salerno e il suo accorpamento a quello di Lago Negro, provincia di Potenza, io mi rendo conto che sia così un impegno in più, lo dico con il massimo rispetto, andare da Salerno a Potenza, ma la soppressione del tribunale di Sala Consilina forse non è un dramma per il paese accorpandolo a quello di Lago Negro. Insomma, per protestare contro questo i manifestanti, tra cui moltissimi avvocati, si sono messi a occupare la corsia nord dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, appunto tra Sala Consilina e Atena Lucana, e consentono il passaggio ai soli mezzi di soccorso. molti gli avvocati del foro salernitano che manifestano, e ci sono anche le forze dell'ordine sul luogo, e questo è un segnale di quanto poi quando tocchi qualcosa in questo paese c'è sempre qualcuno che protesta. E poi c'è la vicenda interessante, magari ne parliamo anche nella seconda ora, perché alcune brutte abitudini non vengono mai meno. Qualcuno ha letto di quello che è successo sostanzialmente in Calabria, dove la signora o dottoressa Marilina Intrieri, che è garante per l'infanzia nella regione Calabria, cosa ha fatto? Non è andata a ispezionare un centro di visita che ospita bambini immigrati, che fa parte della sua attività di lavoro, perché insomma lei appunto è garante per l'infanzia. Sapete perché si è rifiutata di andare a visitare il centro che ospita bimbi immigrati? Perché sul pass che le avevano inviato c'era scritto dottoressa e non onorevole. Allora, perché lei è stata nel 2006-2008 onorevole, a parte ex deputato dell'Ulivo. Allora, a parte il fatto che ho capito il titolo di onorevole si tiene tutta la vita, però poi bisogna anche meritarselo, se mi permette la battuta, nel 2006-2008, cara dottoressa Marilina Intrieri, io la chiamo dottoressa perché non penso che sia un'offesa e non penso che ci sia minaccia di querela, ma le sembra il caso di rimandare indietro un invito perché le hanno scritto dottoressa sull'invito e non onorevole, quando di mezzo ci sono dei bambini e lei viene pagata per fare il garante per l'infanzia nella regione Calabria e non va a visitare il centro perché non hanno scritto onorevole? Ma si rende conto che siamo nel 2013? Che il paese va a pezzi e lei si sta preoccupando di onorevole, di dottoressa? Cara signora, visto che c'era anche, vi ricordate quel prete Edoardo De Filippo, quello era una vecchia battuta di quel prete invece nel Salernitano che fu ripreso dal prefetto perché chiamò signora il prefetto invece che signor prefetto. Cioè qui siamo ai Borboni e vogliamo affrontare la globalizzazione con la Cina e con l'India, con i Borboni, con onorevole, con vossia, voscenza, ma per favore. Vada a visitare il centro, cara signora, vada a visitare sto centro e pensi ai bambini, non pensi ai suoi titoli, anche perché la legislatura l'ha fatta per 2 anni, ma forse magari è meglio dimenticarsela quella legislatura lì dell'Ulivo 2006-2008, no? Ma cosa c'è da vantarsi? Vabbè, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo con il primo tema, quello più importante, la certificazione da parte di Confindustria e del Centro Studi che la recessione, almeno quella, in questo paese è finita. Allora, no, vedo molti messaggi, devo dire il più divertente di tutti è un ascoltatore o ascoltatrice che scrive mi potete dire per favore a che ora è finita la recessione? No, non è, io lo so, c'è anche quella barzelletta, no, di quello che cade dal grattacielo e lo intervistano a metà della caduta, gli chiedono beh, come va? E lui fin qui tutto bene, chiaro. Tutto è relativo, però è tecnicamente finita la recessione perché il terzo trimestre vedrà un segnale un po' più positivo. Ma prima di arrivare al Centro Studi Confindustria vorrei farvi ascoltare che cosa ha detto oggi il Presidente del Parlamento Europeo, José Manuel Barroso, nel discorso sullo Stato dell'Unione, da un lato su una disoccupazione in Europa economicamente e politicamente insostenibile. Ma anche ricordando che la ripresa è fragile e il maggior rischio in questo momento per la ripresa europea, quindi anche italiana, è l'instabilità politica. Growth, which is necessary to remedy today's most pressing problem. La crescita economica è necessaria per porre rimedio al problema più urgente in questo momento, la disoccupazione. Il livello attuale di disoccupazione è insostenibile dal punto di vista economico ed è socialmente inaccettabile. Per questo tutti, e sottolineo tutti, dobbiamo fare il massimo per completare l'agenda per una crescita sostenibile. Stiamo mettendo in atto ogni strumento a nostra disposizione a livello europeo. Dobbiamo però essere onesti e riconoscere che non tutti gli strumenti sono a livello europeo. Alcuni, infatti, dipendono dai singoli stati. Voglio evidenziare che occorre velocizzare le decisioni su due punti cruciali in questo momento: la disoccupazione giovanile e il credito all'economia reale. Dobbiamo anche evitare una ripresa senza creazione di nuovi posti di lavoro. L'Europa quindi deve accelerare il percorso delle riforme strutturali all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione Europea. Occorre concentrarsi sul potenziale del mercato unico, sulla sua realizzazione nei settori della mobilità, dell'energia, delle comunicazioni, dell'agenda digitale e dell'e-commerce, solo per citarne alcuni. Mobility, communications, energy, finance and e-commerce, to name but a few. E adesso le previsioni del Centro Studi Confindustria. Sentiamo perché Confindustria dice è finita la caduta, è finita la recessione e iniziano a emergere indicazioni positive. Mi raccomando però, in chi scrive al 349-238-6666 anche su Facebook, non abbiamo detto che sia finita la crisi o che stia tornando a crescere dai tassi che ci permetteranno in un anno, due anni di recuperare il tempo perduto. Con questi tassi, per tornare ai livelli del 2008, noi ci rivediamo nel 2021, perché sono quasi 9 punti percentuali in meno rispetto al 2008-2007, e quindi, se tanto mi dà tanto, torniamo a quei livelli nel 2021. Dopodiché, nel 2021 chissà cosa faremo, chissà di cosa ci occuperemo, chissà con che legge elettorale andremo a votare, forse con la stessa. Comunque, il vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi Fulvio Conti, nonché anche amministratore delegato dell'Enel, sui segnali della fine della caduta. Abbiamo dei segni positivi, è vero. Possiamo sostenere un moderato ottimismo da questo punto di vista, ma tutto quello che ci stiamo dicendo comunque non sarà sufficiente per far riprendere il percorso di una crescita forte, vigorosa e stabile del nostro Paese, che possa controbilanciare i problemi di questo Paese o portare soluzioni ai problemi strutturali del nostro amato Paese. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi nelle riforme necessarie a recuperare i livelli di occupazione e competitività in grado di garantire un futuro prospero di crescita per le nuove generazioni, se stiamo alle dipendenza di una estemporanea e quanto mai imprevedibile evoluzione del quadro politico nazionale. E sullo stesso tema anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, dopo 8 trimestri di recessione, dovremo vedere finalmente nei prossimi trimestri un cambiamento di segno. 8 trimestri, a casa mia, sono 2 anni, giusto per capirsi, lunghissima anche noi abbiamo avuto la prima recessione nel 2009 come tutto il resto del mondo, solo che ci siamo beccati anche la seconda recessione 2011-2012, solo noi e altri paesi del sud Europa. Comunque, Squinzi sui prossimi trimestri, un cambiamento di segno nell'andamento del PIL. I 6 lunghi anni della crisi hanno lasciato dei solchi profondi nella nostra struttura produttiva e nel nostro tessuto sociale, anche nella nostra psicologia e quindi nei nostri comportamenti. Però non dobbiamo indulgere nel fatalismo o tanto peggio nel disfattismo. Gli economisti chiamano ripresa la fase nella quale l'economia recupera i livelli di attività perduti durante la recessione. Di solito la ripresa dura qualche trimestre e poi lascia spazio all'espansione, alla crescita vera e propria. Ma se guardo al punto più basso, che speriamo di avere da poco toccato, in questa lunga recessione, devo constatare che il PIL è di quasi 9 punti percentuali inferiore al picco del 2007. E se poi guardo ai ritmi di aumento che sono attesi per il nostro PIL da qui al 2017, osservo che si tratta di ritmi, come li ho definiti, personalmente da prefisso telefonico. Devo quindi dedurre che ci vorranno parecchi anni per tornare semplicemente al punto di partenza. E questo è un tempo insopportabilmente lungo per poter difendere le nostre competenze, le nostre produzioni, i nostri posti di lavoro, i nostri livelli di benessere. Questa non sarebbe una ripresa, sarebbe la fine di un sogno, la fine di un'era. Sì, insomma, è chiaro a tutti che se ti ci vogliono dal 2008 al 2021 13 anni per tornare a dove eri ripartito, tu dopo 13 anni, ma anche nella vita, sei un altro, no? Allora non ti ricordi forse neanche più di come stavi 13 anni fa, per cui o si ritorna ai livelli 2007-2008 o vicini a quei livelli in un tempo ragionevole, o se no, vabbè, è una cosa che racconteremo ai nostri nipoti. Ecco perché a me sembra che la politica in questo momento nel suo complesso non capisca l'importanza dei tempi. Non è importante sapere se un domani arriveremo, magari quando saremo tutti, ma è importante arrivarci da vivi, con il paese che conoscevamo, con la struttura produttiva che conoscevamo, con i distretti che conoscevamo, con l'occupazione che conoscevamo, con quel po' di prospettive di futuro che i nostri figli e noi da ragazzi conoscevamo. Se no stiamo a parlare di un altro paese, vabbè, ma allora con un altro paese anche un'altra classe politica. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, intervenendo oggi alla presentazione dei dati del Centro Studi Confindustria, il ministro Saccomanni, evidentemente era proprio una buona giornata oggi, si è anche speso con una barzelletta in tema anche di scenari pessimistici del nostro paese. Saccomanni che racconta barzellette non ce lo vedevo, comunque sentiamo. Mi sembra che complessivamente anche le analisi che ho potuto sentire insieme a quelle della Confindustria possono essere presentate con una narrativa leggermente più ottimista o quantomeno indirizzata sulla inevitabilità del disastro, ecco, che alle volte è un po' il tema ricorrente nei seminari economici, non solo qui in Italia, ma anche a quanto capisco in Germania, in Francia. Insomma, mi viene sempre in mente una barzelletta che era cara al presidente Prodi, no? Quella del ferroviere che deve fare l'esame per diventare capostazione. E allora gli dicono: ah, ci sono due treni che stanno correndo a forte velocità l'uno contro l'altro, tu cosa fai? Attivo subito i semafori rossi. No, i semafori rossi non funzionano. Allora chiamo il macchinista della ferrovia, del treno di destra e di sinistra. No, i telefoni non funzionano. Allora dice: metto dei razzi di emergenza. No, i razzi sono bagnati, non funzionano. Allora cosa fai? Allora dice: chiamo mia moglie e gli dico: vieni a vedere che bello spettacolo. Ecco. Questo appunto è un problema che vorrei evitare. Ministro, adesso non entri anche lei nella scia dei politici o degli uomini prestati alla politica che si mettono a raccontare barzellette. Lì ce n'è uno che almeno su questo è imbattibile, ma non mi sembrava neanche di altissimo livello. Invece il ministro Saccomanni sulle scelte di politica economica e su quanto queste condizionino anche le scelte di politica e la tendenza che ha la politica poi a scaricare le sue tensioni sull'agenda economica. L'Italia aveva bisogno, quando abbiamo preso le redini del governo, di un intervento di carattere congiunturale forte. Io sono certamente consapevole del fatto che le scelte di politica economica che abbiamo fatto finora non le raccomanderei come paradigma di efficienza e di perfezione. Certamente sono state prese in un contesto politico in cui, non ho bisogno di ricordarlo, tensioni politiche di varia natura hanno avuto la tendenza a scaricarsi prevalentemente sull'agenda di politica economica, riducendo i margini, non annullandoli completamente, perché poi alla fine diciamo certi margini di flessibilità e di compromesso li abbiamo trovati e li abbiamo utilizzati, ma certamente hanno reso più difficile la ricerca di soluzioni appunto politicamente perseguibili. Insomma, sono cresciuto con lo slogan che la politica è l'arte del possibile. Quando sono entrato nella stanza della politica ho avuto alle volte l'impressione che la politica è la ricerca dell'impossibile piuttosto che l'arte del possibile. Insomma, il ministro dell'economia ironico tra la barzelletta che abbiamo ascoltato prima e insomma questa definizione della politica non come arte del possibile ma addirittura ricerca dell'arte dell'impossibile non è male, forse anche questo è un segnale che la situazione economica si sta rasserenando, ma al di là delle battute insomma l'indicazione di Saccomanni era chiara, insomma le scelte che abbiamo fatto, il riferimento era anche all'IMU, derivavano da una delicatezza e tensioni politiche che hanno anche ridotto i nostri margini di manovra. E poi comunque la stabilità politica che, ripeto, stabilità politica non è mai fine a se stessa, ma riprendendo il Barroso che abbiamo fatto ascoltare in apertura e poi anche le dichiarazioni del presidente Confindustria Squinzi, è chiaro che per stabilità politica si intende la capacità, la serenità, il margine di manovra per un governo di garantire non solo di agganciare questa ripresa ma se possibile anche di migliorarla rispetto alle prospettive che ha diffuso oggi anche il Centro Studi Confindustria. Ed è in collegamento con noi il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Luca, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dagli elementi diciamo di carattere congiunturale e macroeconomico e poi andiamo invece a che cosa potrebbe andare storto. Le vostre previsioni sono arrivate il giorno dopo questo sorpasso, per carità, più simbolico che concreto, della Spagna sull'Italia quanto a spread. Allora, secondo te la Spagna potrebbe essere un esempio di quello che può fare la politica e quindi le riforme che possono essere fatte per poi riavviare un paese e fare migliorare anche quello che è il suo giudizio sui mercati internazionali? La Spagna era un modello. Prima della crisi venivano indicate le virtù spagnole in termini di riforma del mercato del lavoro, in termini di liberalizzazioni, in termini di crescita occupazionale. Poi è venuta la crisi e si è scoperto che c'era qualche problema anche in Spagna, nonostante una vigilanza bancaria ritenuta severa e nonostante i prudenti atteggiamenti da parte delle autorità monetarie di vigilanza verso il comportamento delle banche con la bolla immobiliare e altre cose del genere, si sono ritrovati con un tasso di disoccupazione altissimo, molto più alto del nostro, doppio del nostro, e hanno aggiustato, cercando di aggiustare rapidamente, continuano ad avere dei problemi, hanno chiesto dei prestiti all'Europa anche se non sottoscrivendo un programma severo come quello greco, portoghese, irlandese o cipriota. Quindi diciamo sicuramente è vero che la Spagna sta facendo bene dei compiti a casa, ma anche noi abbiamo fatto bene dei compiti a casa. Penso diciamo che quello che manca al nostro paese è diciamo una maggiore capacità di concentrarsi sui problemi, affrontarli, risolverli. Quello che sicuramente ci manca rispetto alla Spagna è una pubblica amministrazione così efficiente, quindi diciamo abbiamo dei difetti storici che ci pongono come handicap forte. credo, diciamo, che quello che diceva il ministro Saccomanni stamattina si riferisse non solo alle politiche italiane, quindi all'IMU, o riguardo alla perfezione delle politiche, ma avendolo ascoltato si riferiva anche alle politiche europee, nel senso che diceva che sicuramente sarebbe potuto fare meglio, con maggior tempismo, maggiore efficienza in termini di una caduta del prodotto e aumento della disoccupazione meno violente in alcuni paesi, ma è vero che l'Europa con fatica sta, diciamo, avanzando lungo la strada dell'unità. È una strada incerta, una strada che mai sperimentata prima nella storia dell'umanità, di una pacifica, come dire, condivisione di sovranità. E ci sono inciampi importanti e questo fa traballare tutto l'edificio. Dopo il traffico, invece, altri dati sul tipo di ripresa che voi stimate, e soprattutto quando questa ripresina, purtroppo qua siamo sempre nel paese delle ripresine, avrà un effetto sull'occupazione, cioè si tradurrà nella vita degli italiani di tutti i giorni. Di nuovo in diretta, avete appena ascoltato le informazioni sul traffico più brevi della storia di Radio 24, lo dico per inciso. Bene, vuol dire che oggi non ci sono problemi, invece noi torniamo a occuparci delle previsioni del Centro Studi Confindustria. E allora, avete detto, Luca Paolazzi, invece che fare meno 1,9% quest'anno faremo meno 1,6, e quindi c'è un miglioramento del tipo di recessione. È migliorata invece anche la prospettiva per il 2014, invece che fare più 0,5 faremo più 0,7%. Che cosa ha contribuito a farvi rivedere, appunto, in miglioramento sia la stima sul 2013 che quella sul 2014? Fondamentalmente i numeri usciti, nel senso che già a giugno davamo una, come dire, toccata, toccare terra in un certo qual modo, cioè arrivare in fondo a, più basso, a un punto, diciamo, un punto di più basso intorno alla metà di quest'anno, seconda metà di quest'anno, e poi chiamiamola ripresa, anche se tecnicamente è sbagliato, nel senso che ripresa dovrebbe essere un periodo abbastanza breve, diciamo 3-4 trimestri, nell'arco del quale si recupera il terreno perduto, appunto si riprende il terreno perduto durante la recessione. Solo che queste due violentissime recessioni, anche molto lunga la seconda, ci hanno lasciato 9 punti di PIL più bassi, e per recuperare questi 9 punti a un ritmo di crescita, se va bene, diciamo dell'1% anno, noi diciamo 0,7 l'anno prossimo, ci vogliono 9 anni, non può chiamarsi ripresa una cosa del genere. Allora bisogna considerare il fatto che abbiamo perso definitivamente una parte di produzione e occupazione, ma non possiamo rassegnarci a questo. Io non penso, voglio dire, che il fatto che si rivedono, diciamo, di 2 centesimi o 3 centesimi di punto quest'anno, l'anno prossimo, cambia la nostra realtà. Certo, io sono contento di poter portare una volta tanto qualche notizia più diciamo rosea, più positiva, anche più sì, positiva, più ottimistica. E spesso quando vado a parlare con gli imprenditori mi chiedono notizie, diciamo, positive. Queste sono notizie positive perché c'erano timidi segnali in primavera, questi sono stati confermati in estate, i dati usciti sono migliori dell'atteso, e quindi, diciamo, rivediamo un po' all'insù. Finire di cadere è importante, però rendersi conto di dove siamo e quanto tempo ci vuole forse è anche altrettanto importante, per non pensare che il peggio, la crisi, sia finita. È finita la recessione, non la crisi. La crisi è con noi, nella misura in cui abbiamo una disoccupazione che supera il 13% se includiamo i cassi integrati, se guardiamo, diciamo, agli investimenti che stanno un 27% sotto i livelli pre-crisi, alle famiglie che hanno rinunciato di fatto a spendere una mensilità, per alcune di esse anche di più, perché ovviamente questa è la media un po' di Trilussa, quindi sicuramente, diciamo, sono quelli che hanno, sono riusciti a aumentare i consumi in questo intervallo di tempo, invece ci sono quegli altri che hanno tagliati molto di più. Quindi la situazione di disagio sociale è percepita, il fatto che gli italiani siano composti nel non manifestare, come è successo altrove, contro le politiche di austerità, va, diciamo, a loro onore, è una medaglia da tenere in considerazione, però non si può pensare che questa sia un'azione che possa avere un brillante futuro se non si fanno azioni coerenti per creare quel brillante futuro. E questo la dice lunga Luca Paolazzi anche sulla capacità poi che avrà questa piccola ripresa economica di trasformarsi in aumento dell'occupazione. Voi su questo siete ancora molto scettici, addirittura se ho ben visto nell'ultimo trimestre di quest'anno vi sarà un ulteriore fondo nella disoccupazione, voglio dire che vi sarà una disoccupazione ancora più alta, portando a questo punto a 1.805.000 i posti di lavoro persi in questo paese dal 2008, 1.805.000. Qualcuno mi ascolta? Anche a Roma le frequenze vanno bene a Radio 24, no? Anche in zona Montecitorio, Centro Storico, Palazzo Chigi. 1.805.000 posti di lavoro persi dal 2008. E ripeto, prima che la ripresa si trasferisca sull'occupazione ce ne vuole sempre, a maggior ragione con questa piccola ripresa. Nel ringraziare il direttore del Centro Studi Confindustria, e prima di lasciare la linea al GR, dopo vi facciamo ascoltare, restiamo sui temi della politica, perché a questo punto tutti gli occhi sono sulla stabilità, non fine a se stessa. Però, visto che abbiamo citato il caso dell'onorevole, della signora Marilina Intrieri, che non vuole svolgere il suo lavoro perché non l'hanno chiamato onorevole, vi faremo ascoltare anche l'appello disperato di una donna che ha chiamato questa mattina, e così vediamo di capire quanto grande sia la distanza tra paese reale e paese immaginario, paese politico. I have a dream that one day on the Red Hill in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Sette minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Il nostro sogno resta sempre quello di un paese in cui le regioni non spendano da 100 miliardi nel 2001 a 150 miliardi nel 2011 per mantenersi sostanzialmente per la spesa corrente e soli 17 miliardi in investimenti, ma quello di un paese in cui, mi dispiace se mi ripeto, le cifre siano capovolte: 17 miliardi per mantenersi e 150 miliardi di investimenti. Ma il sogno di oggi riguarda anche la signora Marilina Intrieri. Io non voglio ricordare tutta la vicenda, però la signora, che essendo laureata è anche dottoressa, che avendo fatto la deputata dell'Ulivo nella breve legislatura 2006-2008 è anche onorevole, perché il titolo resta, ripeto, bisogna anche mantenersi, meritarselo però. Allora, cosa è successo? Lei è in questo momento pagata dalla Regione Reggio Calabria per fare il garante per l'infanzia, che è un ruolo molto delicato. Si è rifiutata di andare a visitare il centro accoglienza e richiedenti all'asilo di Isola Capo Rizzuto, dove ci sono molti bambini immigrati, perché sul pass che le avevano inviato per l'invito, era importante la sua presenza vista la delega che ha, c'era scritto dottoressa e non onorevole. Ecco, vorremmo un paese in cui queste cose non si sentono più, perché non si possono sentire. E se vuole una battuta, signora, dottori si diventa ma signori si nasce. Ecco, Totò diceva io non nacqui, lei non lo so, ma come si fa a rifiutare di svolgere il proprio lavoro adducendo una scusa, mettendo nero su bianco, mandato il fax, dottoressa è un titolo che non rispecchia la mia qualifica, una pesante lettera, è un inconveniente che bloccherà ogni mia presenza lì. Ma stiamo scherzando? Oh, ma tu, lei, le do del lei, ci mancherebbe, lei è stata nominata dal Presidente del Consiglio regionale Calabro per essere il garante per l'infanzia. Vada in questo centro, il CARA, cara signora, il CARA si chiama il centro accoglienza richiedenti, vada al CARA, faccia il suo lavoro, si faccia chiamare come vuole, ma ci vada, perché sennò da dottoressa a onorevole a altri appellativi il passo è breve, cara signora Intrieri. E se vuole venire in trasmissione venga, perché non ho nessun problema. Ricordo quel povero prete di dov'era, a Salerno, che fu ripreso dal prefetto di Napoli perché si permise di chiamare signora un altro prefetto. No, la signore denigrativo è signor prefetto, ma siamo a questi livelli. Ecco, proprio perché siamo a questi livelli, io vi vorrei far ascoltare, visto che poi qui continuiamo a ragionare della distanza tra il paese reale e la politica, che dibatte di temi molto molto interessanti in questo periodo, soprattutto per riuscire a uscire dalla crisi, la telefonata che ha ricevuto questa mattina Alessandro Milan nel suo programma qui a Verona 24, ovviamente 24 mattino, di una signora Loredana, un'ascoltatrice che ha chiamato questa mattina. Andrea Milano da Loredana, buongiorno Loredana. Buongiorno, buongiorno dottor Milan, buongiorno a tutti. Sono molto arrabbiata, molto frustrata, perché è incredibile che in questo paese, con tutte le rogne che abbiamo, siamo ancora qui in punta di diritto a dibattere su Berlusconi. Non gliene frega niente a nessuno. Berlusconi è stato condannato, c'è una legge che prevede che non sia più agibile politicamente, che anche come termine è assurdo. Deve andarsene, punto. Perché il resto del governo, anche questo balletto cade il governo, non cade il governo, questo governo non ha fatto niente, ci hanno messo 3 mesi per averlo e hanno iniziato a litigare sull'IMU. L'IMU è l'ultimo dei problemi italiani, abbiamo avuto l'ICI fino all'altro ieri, nessuno ne ha mai parlato. Questa discussione sull'IMU è una discussione fasulla per far credere che stiamo decidendo qualcosa. Mio figlio ha iniziato l'anno scolastico e non ha la lavagna in classe, non la lavagna elettronica, attenzione. Sì, la lavagna, la lavagna. Quella col gesso. E ieri ascoltavo il ministro dell'istruzione, perché vi seguo quasi tutte le mattine mentre vado a lavorare, in un'azienda che ha messo in cassa integrazione 50 persone su 500 quest'anno, ok? Il ministro ieri diceva che voleva informatizzare la scuola e dare il tablet. Ci hanno obbligato a febbraio a iscrivere i nostri figli su internet, e va benissimo, io mi collego a internet e l'ho iscritto. Quando sono andato in segreteria a perfezionare l'iscrizione, ho scoperto che avevano copiato a mano su dei fogli protocollo tutti le informazioni delle iscrizioni dei bambini. Questo per dire dell'informatizzazione. No, ma certo. Mi scusi, mi faccia finire, poi vi lascio avanti. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi, dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini. E quando dicono la stabilità del governo per il popolo, non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe. Perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Comunque uno la pensi, al di là della valutazione politica, insomma, cioè, io non lo so, o li abbiamo solo noi gli ascoltatori che ci scrivono di problemi concreti, o veramente non si capisce a che punto sia scivolato questo paese nella difficoltà quotidiana la gente. Guarda che il caso che raccontava questa signora, so già che alcuni scriveranno populismo, vabbè, le solite menate, magari ci sono i figli che vanno in altre scuole, magari pagano una retta molto alta. Il caso della signora è un caso drammatico. Il ministro parla di digitalizzazione, qui mancano le lavagne. Allora, vogliamo occuparci di questo paese una volta tanto e avere delle iniziative? Adesso ascolteremo cosa ha detto Enrico Letta alla richiesta del presidente di Confindustria Squinzi di ridurre il cuneo fiscale, le tasse sui lavoratori, le tasse in busta paga. Ma per favore, mentre abbiamo una signora che non va a visitare i bambini perché non la chiamano onorevole e la chiamano solo dottoressa, poi ci sono le altre signore onorevoli, veramente onorevoli, che si fanno, scusatemi l'inglesismo e il francesismo, un mazzo così tutti i giorni, e poi gli sfoghi sono questi. E non si può continuare così. Ah boh, il presidente Confindustria, la richiesta al governo ridurre subito il cuneo fiscale 4-5 miliardi per un primo taglio delle tasse in busta paga. Oggi servono dei segnali immediati, il segnale immediato non può essere altro che sul costo del lavoro. Nell'appello che abbiamo lanciato a Genova insieme alle altre parti sociali, è chiaro che bisogna passare alla messa in pratica di una visione precisa, e per fare questo comunque è necessario mettere sul piatto un minimo di investimenti. Noi pensiamo che servano almeno 4 4-5 miliardi subito. Noi ci auguriamo che dal governo, che dal nostro punto di vista ha fatto tutti i passi che ha fatto, li ha fatti nella direzione giusta fino ad oggi. Certo, però, noi riteniamo anche che questi passi siano stati un po' timidi e vadano accelerati e ampliati. La risposta, dicevo, del premier Enrico Letta alla richiesta che è arrivata oggi anche da Confindustria. Sul tema del lavoro, il piano d'azione, l'Italia ha assunto impegni netti, tagliare il costo del lavoro, impegni che voglio confermare qui rispetto alla legge di stabilità e ai prossimi progetti di politica economica. Tagliare il costo del lavoro è il cuore di tutte le politiche per la crescita rispetto al tema del cuneo fiscale. La rapida introduzione della Youth Guarantee, la riforma dei centri pubblici per l'impiego. Credo che queste siano questioni di grandissima importanza, centralità, su quelle lavoreremo. E ne parleremo, dicevo, delle richieste arrivate da Confindustria, dei segnali, della preoccupazione sull'instabilità politica anche del ministro Saccomanni. Ne parleremo con l'editorialista adesso alle 24 ore, Guido Gentili. Guido, buonasera innanzitutto. Buonasera. Prima buonasera. Però il commento di borsa, più 1,33% Milano oggi, meglio di tante altre borse europee, Parigi invariata, Francoforte più 0,60, Londra 0,07 e non poteva essere altrimenti. E l'America più 0,60%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Benissimo oggi le banche, devo dire, immagino anche dovuto all'asta dei bot. Popolare Milano più 7,12, Monte dei Paschi più 3,70, Unicredit più 3,5, Banco Popolare più 3,5 anch'esso, UbiBanca più 3,30, Popolare Emilia Romagna più 3,20%. Livia. Sì, le banche sono andate molto bene, come dicevi tu. Sono stati collocati 8,5 miliardi di bot, anche se con rendimenti in ascesa, ma era comunque atteso dagli analisti. Oggi quindi vi è stata euforia su tutto il comparto. La migliore è stata BPM, che ha guadagnato oltre il 7%. Qua, oltre alla buona intonazione del comparto, vi è anche una notizia, nel senso che il Presidente del Consiglio di Gestione, Andrea Bonomi, oggi ha detto di auspicare di riuscire a trasformare l'istituto in una banca normale a livello di governance, quindi probabilmente è stato il pretesto per acquistare il titolo, che quindi ha chiuso con la migliore performance sul FTSE MIB. Ancora bene, poi arriviamo anche a Mediaset perché si collega anche con Guido Gentili, bene anche Finmeccanica più 2,20%, tutte le utilities energia bene, A2A più 2,90%, Enel Green Power più 2,30% ed Enel più 1,85%, al palo invece Eni invariata oggi. Finmeccanica. Finmeccanica, vi erano oggi indiscrezioni stampa secondo cui appunto in giornata vi sarebbe stato un incontro tra i coreani di Doosan, che sono interessati ad Ansaldo Energia partecipata di Finmeccanica, e l'amministratore delegato della società quotata italiana Alessandro Panza, proprio per discutere del dossier Ansaldo Energia. Una delle ipotesi, sempre secondo i rumor, che Finmeccanica resti comunque con una quota del 10-20% in Ansaldo e che nell'operazione venga coinvolto anche il fondo strategico italiano. Altri titoli leggeri cali, ST Microelectronics meno 1,1%, qui ci sono alcune indiscrezioni, Livia. Sì, c'erano delle voci oggi sul mercato secondo cui il gruppo non fornirà più alcuni chip per i nuovi iPhone della Apple che sono stati presentati ieri, secondo gli operatori, quindi questa sarebbe una notizia molto negativa per il titolo della società. Ricordiamo che appunto questo tipo di chip per la società rappresenta il 90,5% del giro d'affari totale. Sì. Ancora Pirelli, qualche realizzo, era cresciuto molto nei giorni scorsi, meno 0,30%, migliori e peggiori, l'Espresso più 10%, RCS bene oggi gli editoriali, RCS più 7,5% e la Pop Milano, abbiamo detto, anche appunto non solo perché vanno bene tutte le banche, ma come tu ricordavi il numero uno Bonomi ha detto che spera di riuscire a trasformare la banca in una banca normale e quindi non più una popolare ma una banca contendibile. Il fronte tra chi ha perso di più invece vede Invest meno 11,30%, poligrafici printing meno 6 e 12. Mediaset, Livia. Sì, Mediaset, ricordiamo che il titolo è sempre molto legato alle vicende politiche, quindi Piazza Affari è andata bene in relazione anche alla situazione politica italiana, il titolo ne ha beneficiato, ma in questo caso vi sono anche delle buone indicazioni sull'andamento della pubblicità ed è per questo che è andato bene tutto il comparto editoriale. Ricordiamo che il numero uno della RAI, Gubitosi, ha parlato di un miglioramento del mercato pubblicitario in Italia, e innescando quindi gli acquisti su tutto il settore, ad esempio Cairo chiuso in rialzo di oltre il 2%, l'Espresso di oltre il 7%, anche RCS ha chiuso in territorio positivo. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso invece riprendo Guido Gentili, perché è dall'inizio del programma che stiamo commentando, insomma, la relazione del Centro Studi Confindustria, le richieste arrivate dal mondo delle imprese, riduzione del cuneo fiscale, con questo fine tecnica della recessione, ma come ci diceva prima Luca Paolazzi, un conto è dire che è finita la recessione, altra cosa è dire che è finita la crisi. Guido, l'appello rivolto alla politica, sia Saccomanni che ha detto, insomma, la politica ci ha obbligato a fare delle cose non sempre, diciamo, condivisibili, ma soprattutto che hanno ridotto i margini di manovra, e dall'altro, insomma, questo continuo appello alla stabilità. Molti ascoltatori scrivono: sì, ma la stabilità fine a se stessa è immobilità, Guido. Esattamente così, cioè la stabilità è un bene prezioso assieme alla governabilità, né anzi lo specchio, a condizione che però sia intesa come un dato dinamico, cioè che serva in questo caso a far crescere il paese. I compromessi a ribasso su questo funzionano poco, per esempio sono tutti d'accordo adesso, dal Presidente del Consiglio Letta, il Presidente di Confindustria, i sindacati, le forze politiche, a indicare nella manovra per abbassare il cuneo fiscale una delle priorità per agguantare questa crescita che altrimenti è molto pallida, perché è uno 0, qualcosa. Questo però significa un intervento significativo che il Presidente di Confindustria Squinzi ha cifrato in circa 4-5 miliardi. Ora vorrei solo ricordare che per quanto riguarda la sola abolizione della seconda rata prima casa dell'IMU, per la quale c'è un impegno politico sottoscritto dalla maggioranza di governo, stiamo discutendo e ancora non si sono state trovate le coperture per 2,5 miliardi. Quindi, insomma, il problema esiste, dobbiamo in qualche modo uscire da una calibratura massima su tutti i provvedimenti che vengono presi per cercare di accontentare oggi questo partito, domani un altro partito, e dare una scossa all'economia, ma vera. Ecco, tra l'altro il ministro Zanonato, sempre a margine della presentazione delle stime di Confindustria, il ministro dello sviluppo economico, ha detto: stiamo lavorando per non far aumentare l'IVA dal primo ottobre. Sì. E poi sulla spending review c'è l'impegno forte del governo a intervenire in maniera sistematica, non nominando una specie di cavaliere solitario, il riferimento lì era Enrico Bondi forse, ma creando una struttura permanente dello Stato con forti collegamenti incentrata sul Ministero della Ragioneria. Noi stiamo conducendo da lunedì una battaglia, da sempre, ma a maggior ragione in questi giorni, una battaglia perché vengano finalmente tagliate e ridotte le spese della pubblica amministrazione. Io adesso, Guido, ti faccio sentire un passaggio, visto che gli ascoltatori lo rivolgono e ci mancherebbe, mentre commentavamo questa vicenda incredibile del garante per l'infanzia della Regione Calabria che non va a visitare un centro di accoglienza per bambini immigrati perché nell'invito le hanno scritto dottoressa e non onorevole, avendo lei fatto parte per 2 anni come deputato dell'Ulivo nel 2006-2008, complimenti alla signora. Il passaggio di questa mattina dell'intervento a 24 mattino di una signora che secondo me è più di tante analisi, racconta anche il perché parliamo ogni tanto di distanza tra paese reale, tra i costi della politica, i 50 miliardi che costano le regioni in più in 10 anni per automantenersi e quello che capita agli altri italiani. hanno obbligato a febbraio a iscrivere i nostri figli su internet, e va benissimo, io mi collego a internet e l'ho iscritto. Quando sono andato in segreteria a perfezionare l'iscrizione, ho scoperto che avevano copiato a mano su dei fogli protocollo tutti le informazioni delle iscrizioni dei bambini. Questo per dire dell'informatizzazione. No, ma certo. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di che cosa sia la vita dei cittadini, e quando dicono la stabilità del governo per il popolo non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto CocoPro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. I have a dream that one day on the red sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Guido Gentili, quanto dura la pazienza? Perché qua, insomma, no? Ormai. L'intervento dell'ascoltatrice era molto. E non hai sentito la parte precedente, che molto dice efficace. Il ministro parla di digitalizzazione, riaprono le scuole. In classe mia non c'è la lavagna, quella normale, quella di grafite, non sì. Quella digitale. Sì, sì. Infatti il piano della digitalizzazione nelle scuole è un'incompiuta, sì, l'ennesima incompiuta. E quanto dura? Beh, non so, dura fine al momento in cui torneremo a votare, dove probabilmente la gente, poi questo, io non so quando questo accadrà, ma insomma, in cui si farà, diciamo, un po' il bilancio di questa situazione. Speriamo, diciamo, quando avverrà, che sia, diciamo, migliore di quello che si prospetta oggi. Che oggi, e quanto dura il governo invece? Quanto dura il governo? Diciamo, aspettiamoci per altri 15 giorni un stop and go, un tiro e molla continuo sulla questione che riguarda Berlusconi. Si parla già di ipotesi di un governo Letta bis eventualmente, quindi della volontà del Presidente della Repubblica di non sciogliere le Camere, però il problema è, bisogna vedere poi su quali basi politiche si costruisce un eventuale governo Letta bis, perché appunto se si tratta di cercare un equilibrio solo per l'equilibrio e quindi, diciamo, si rimane poi immobili sul da fare perché non ci sono le condizioni politiche per fare delle scelte coraggiose, torniamo punto a capo molto rapidamente. Ah, su questo non c'è dubbio, stabilità senza muoversi si chiama immobilità. Grazie a Guido Gentili. Un ringraziamento a tutti voi, a partire dalla signora che ha chiamato questa mattina, e un invito alla signora Marilina Intrieri, vada a visitare signora e faccia il suo lavoro, per cui è pagata, altro che onorevole dottoressa. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.